Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Buongiorno da Johannesburg e da Dario Ricci. L'ottimismo di Marcello Lippi e i guai alla schiena di Gigi Buffon sono le due facce del ritiro azzurro di Centurion dopo il pari col Paraguay. Per il portiere sostituito nell'intervallo della gara d'esordio, forte sciatalgia nella zona sinistra e tempi di recupero a questo punto non determinabili. Una tegola che non cambia lo stato d'animo di Lippi dopo la gara coi sudamericani. Siamo cresciuti molto rispetto alle ultime apparizioni, perché solo quelle erano i riferimenti nostri. Ma la consapevolezza che quello che avevamo fatto, quello che avevamo detto, che la crescita fisica e atletica ci sarebbe stata, è un'iniezione di sicurezza, di convinzione per i ragazzi. L'avversario che ci è venuto ad affrontare con grandissimo rispetto, un po' anche perché gliel'abbiamo imposto noi. E c'è da crescere però per quanto riguarda alcune cose, certamente. Ma questo succederà sicuramente. Ad aumentare l'ottimismo del CT anche l'1-1 tra Slovacchia e Nuova Zelanda ieri nella seconda gara del girone. Reti di Vitek e nel finale del neozelandese Reid. Del resto poi nessuno finora ha fatto vedere un grande spettacolo. Non ho visto la perfezione in nessuna delle altre squadre che ho visto giocare fino adesso. La perfezione non ce l'ha nessuna alla prima partita. Penso che rischiamo molto di più. 4 anni fa, la prima partita col Ghana, se vi ricordate, dove Buffon fece 4-5 parate di un certo tipo, piuttosto di quello che abbiamo fatto ieri sera. Però andiamo un pochettino più vicino alla realizzazione. Creare una squadra pronta a tutte le situazioni, questo è l'obiettivo del CT. C'è stata una crescita sicuramente importante come condizione fisica, come convinzione. C'è ancora qualcosa da migliorare, certamente lo sappiamo. Non dipende solo esclusivamente dal modulo tattico, assolutamente. D'altronde questi sono 2 o 3 modi di giocare che abbiamo, sui quali abbiamo lavorato in questi 20 giorni che siamo insieme, e con questi andremo avanti. Può darsi che una volta ne utilizzeremo uno, può darsi che una volta ne utilizzeremo un altro. È una caratteristica di tutte le squadre, di molte squadre, ma ci sono dei paesi, delle nazioni dove si gioca, tutte le squadre giocano lo stesso tipo di calcio e tutti giocano lo stesso tipo di calcio e la nazionale gioca lo stesso tipo di calcio. Altre nazioni invece dove c'è, diciamo così, una globalizzazione maggiore, e allora ci sono 2 o 3 maniere di giocare. A proposito di chi non incanta, ieri nel gruppo G ha sofferto persino il grande Brasile. 2-1 alla Corea del Nord, che cade solo nella ripresa coi gol di Maicon e Delano, prima della storica rete della bandiera di Ji Jun. L'analisi nel dopogara di Riccardo Kakà, ancora in cerca della migliore condizione. Bene partire con una vittoria, credo che questa è un fattore molto positivo di questa prima partita. Poi dobbiamo migliorare, certo, tante altre cose, però la prima partita è sempre un po' più delicata per l'ansia, per tante altre cose, però il risultato, la vittoria, i 3 punti sono positivi. Tu come ti senti? Come stai come condizione fisica ora? Bene, sono contento della mia prima partita perché non sapevo in che condizione potevo arrivare a questo mondiale dopo l'infortunio, però sono arrivato bene, sono riuscito a giocare 70 minuti oggi. Bene, sono contento della mia prima partita. Primo tempo difficile però, primo tempo difficile. Molto difficile, è difficile trovare una squadra che si chiudi veloce, si chiudi bene. Però alla fine loro non sono riusciti a chiudere tutti i 90 minuti. Nel secondo tempo gli spazi, abbiamo creato più spazi, abbiamo fatto 2 gol e create altre possibilità di gol. Nell'altra gara del gruppo G, 0-0 tra Portogallo e Costa d'Avorio. Palo di Cristiano Ronaldo, Drogba in campo nel finale, malgrado la frattura al braccio destro. Oggi tocca al gruppo H, coi campioni d'Europa della Spagna che alle 16 affrontano la Svizzera. Prima alle 13.30 Honduras-Cile. Le ambizioni dei ragazzi di Bielsa, viste da un grande ex del calcio cileno, Ivan Zamorano. Mi sembra che abbiamo una bellissima squadra, abbiamo un muy buen tecnico, e mi sembra che ha impresso anche il carattere, la personalità e soprattutto il compromesso con una filosofia di gioco che è la filosofia di Bielsa, e speriamo, abbiamo tanta fiducia che il Cile stia bene in questo mondiale. Poi alle 20.30 via la seconda giornata, a Pretoria torna in campo il Sudafrica, padrone di casa, che affronta l'Uruguay. Per ora da Johannesburg è tutto, ancora l'augurio di una buona giornata.